cose, cioè, no, no, qui è Revendi, sta calando l'imbeccio, mi sa che arriva, e allora è poi su e su, sì, lascialo stare, perfetto, vai, sei rinato, infatti, non l'ho già fatto, finito, devi mettere le mani. Una cosa, quando hai 5 minuti ti asoli quel foro e ti sollevi a tratta nella staffetta, capito? Così la metti dritta. Però il baracchino è eccezionale. E allora già la dici fatta. Perché di sempre Santiago 9, nella 131, hai calato solo lì vicino a casa tua e boh. Infatti te l'ha detto Marco, c'ho 400 canali quello. No, lascialo stare così, già va bene. No, va bene. Bene, non mi dà niente di questo cacchio di Alan 48, c'è nulla, mi grazie. Schema, non riesco a non vedere un accidente. Ho l'altro che c'ho io, c'ho l'altro nuovo nuovo, ho l'altro, ancora dentro la scatola. Ne metto uno a fianco all'altro e guardo se le posizioni dei trimmer corrispondono a quello mio. Sì, sì, ce l'ho nuovo, nuovo dentro la scatola, concessione, dentro l'armadio, nuovo, avrò acceso, scendo 3 volte, nuovo, c'è una concessione, capito? Allora se lo apro, li metto uno a fianco all'altro e guardo se corrispondono, se sono perfetti come deve essere. Ma secondo me sono tutti serrati. Ce n'è uno solo aperto, che è quello dell'LC. C'è scritto LC. Sì. Sì, è strano, gli altri siamo tutti nella stessa posizione. Molto strano. Comunque. Il mio, davanti all'armadio, lo apro, lo metto a fianco, tanto sono uguali, stesso modello di quello. Mi non sbagliare, mi scacciaviti il tuo. No, tocco il mio, non tocco, è uguale a quello, è quel modello lì, capito? È quel modello lì, perché l'altro modello si illuminavano anche i pomelli, questo invece no, capito? È uguale a quello lì, avevo comprato la Tonino, la GMC, figurati, so neanche quanti anni fa. No, lo metto a fianco, Marco, perché è impossibile, ce n'è solo uno dove c'è scritto LC, quello è tutta manetta, gli altri sono tutti uguali a senso contrario, blu, mi sembra strano a me. Sì, anche a me, strano che siano tutti a zero, blu. Leia, buonasera a tutti, dai, mi sono docciato adesso. Ho raggiunto la pace, dai, mamma mia, ogni sudata sul camper, anche al bar. Quindi adesso sto meglio, dai, sono tutto profumato, sono messo il borotalco, cosa vuoi di più? Ah, bene, bene. E vedi quello che puoi fare, Claudio, se no dallo a chi lo sa maneggiare, dai, così almeno si salva. Si salva e poi lui si decide se venderlo oppure tenerlo. Sto scendendo, l'ora di controllo, riesci a sentirmi con la buonasera circolare? Certo Sandro, che ti sento, ti accoppio magnificamente bene, però c'era, hai parlato insieme a Marco e quello qua è 9 più 30, e quindi eri sotto, non ti sentivo, sentivo qualcosa che fischiava sotto, però non capivo se era lui che stava uscendo con un fischio, se c'era qualcun altro. Sì, Sandri, ciao, buonasera, avanti, cambio. Ciao, ok, dai, no, mi ricordo, cominciando a farmi preoccupare, perché, vabbè, qua sono già un po' che non accendo niente, quindi ho detto, aia, invece, va bene, dai, che dire, buonasera signori, ben risentito dopo un poco, poi mi contatto, e tante cosce a te, dai, allora ti calo, mi puoi girare. Non ti preoccupare, sa, io posso guidare molto, comunque non ti preoccupare perché stai andando come sempre, 9 più 20 quasi, radio 5 perfetta, una bomba, solo che hai parlato assieme a Marco non si capiva niente. Avanti, oggi per Sandro, che ti sei, cosa ti ha detto Eugenio? Ah, vai pomposo, mi vuole sacchino nuovo, bello, pimpante, l'altro me l'ha lasciato qua, adesso lo mandiamo a mettere a posto. Mandalo da Bianconi. Ok, ciao Marco, ciao Eugenio, ma Eugenio chi è che l'ha detto? Che dal camper non si può uscire bene, chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Logicamente vogliono, le cose vogliono fare come si deve, perché il camper è, diciamo che ha un, diciamo, sistema tutto particolare. Però se trovi il punto giusto va benissimo. E poi se hai le scarpe nuove. Ma ti manco se ti mai se stiamo durando la camper. Sì, si sente, il camper non si sente. Però guidami, ti ascolto, ti ascolto bene, dai. La modulazione chiara va benissimo, va benissimo. Il segnale va bene così, è relativo, però logicamente. Che se in casa diciamo siamo lì, comunque la modulazione va benissimo, è chiara, limpida, va più che bene, va bene, va bene, dai, avanti. Marco, ciao, buonasera, sei Mike. E ciao Sandro, ben entrato. C'hai appena appena di strappamento, parla più piano oppure ne riduci appena, dai, appena appena ce n'è, eia, naturalmente Eugenio. Quello, l'apparecchio che c'hai tu, base, è il top del top, quello non è raggiungibile come qualità. L'altro leggermente inferiore, capito? E poi ricordati che quello che mi hai fatto vedere base è un signor apparato, eh. Quindi quello è il numero uno, diciamo, numero uno. No, quello che hai a casa è il numero uno. Quello in camper, vabbè, esce benino, ma quello che hai a casa è perfetto, è proprio cristallino, limpido, capito? Già mi sono dimenticato il nome di quell'apparato là che hai a casa, no, non mi viene il nome. Quello è un Uranus, Lafayette Uranus, capito? Quello era il mio, era un signor baracchino, quello, un signor baracchino veramente. Va molto molto bene, molto molto bene. Sì, io lo so, abbiamo fatto l'impianto come si deve, ma il problema base è che l'Aran 48 che lui stava usando è tutto manomesso, è tutto toccato, capito? Sicuramente è spostato anche di medie frequenze, c'ha tutti i trimmer a zero, che adesso io lo affiancherò a quello che ho io originale e vedo se i trimmer devono rimanere così o sono toccati, perché ce n'è uno solo che è al massimo ed è quello delle LC, gli altri sono tutti toccati, capito? Sicuramente, perché sono tutti nella stessa posizione, tutti praticamente a zero. Quindi adesso mi sto aprendo il mio, che è originale, mai toccato, nuovo nuovo, che ce l'ho in concessione, dentro l'armadio, e glielo affianco e voglio vedere se è come dico io o che cosa. In caso contrario va portato a chi ha un analizzatore di spettro, a chi ha gli strumenti per poterlo rimettere in linea, perché sicuramente è tutto scacciavettato. E quindi Marco gli ha dato un baracchino seminuovo da mettere nel camper, ma ti dico che fa veramente molto molto bene. Bella la modulazione, buono segnale, ha fatto da Sassari sino all'ingresso di Porto Torres con un segnale di 9, poi si è abbassato a 7-8 entrando a casa sua, comunque la radio è bella, chiara e perfetta, capito? Sa, quindi era il baracchino che proprio è messo male. Che sogno a vento che c'è qua? Sta ululando il vento qua, lo sai? Ok, ok, va bene, sì, ma qualcosa che non andava, qualcosa che non andava c'era, perché io lo stesso lo sentivo malissimo, malissimo, vabbè, purtroppo quando chiudo cacciavite dove non potrebbe essere usato dai competenti è normale che succede questo. Quindi adesso va bene, va benissimo, Eugenio, va più che bene. Dai, per metterti il tetto adesso cominciamo a fare. Va bene, signori, dai, io sono internato, quindi vi ascolto, rimango in ascolto sul canale 10. Se non ci dovremmo sentire di nuovo, proseguo con tutto. l'accensione, ho acceso tutto perché ero già un bel po' che non accendevo niente, ho detto va, fammi vedere un attimino. Dai, buon proseguo di corteo e alle prossimine. Dai Claudio. Ciao, passiamo lì. Ok, ci aggiorniamo magari al telefono. Buon fine serata, buon tutto. E niente. Noi ci diciamo sempre le cose, va bene, ok, buon fine serata, niente, non ti dico altro, ok, avanti Eugenio per Sandro, vai Marco. Ehi, ciao Sandro, dai, sentiamo, buona serata, buon tutto, vai via. Mi dalla macchina o da casa, stavo dicendo a Eugenio, no? Che la mia antenna sul tetto vede la zona industriale di Porto Torres, vedo proprio le torri, però la città di Porto Torres non la vede l'antenna perché c'è tutta la zona di Pruriceda che la copre, capito? Quindi per quello io non arrivo molto forte là e non ricevo molto forte a Porto Torres, perché è coperta dalla zona alta di Sassari, copiato? Sì, qua siamo a parità di watt, 4 watt ce l'ha questo e 4 watt ha quell'apparecchio del camper, capito? Non ne sto più usando potenze più elevate perché c'è il rischio di fare TVI o fare splatter, non lo so. Vabbè, per gli splatter pazienza. Più che altro non vorrei disturbare le antenne TV. Un giorno comunque lo attacco, dai, ti faccio sentire la differenza di segnale da liscio e da attaccato. Bene, e beh Claudio, quanti occhiali ti sei messo per riuscire a vedere il trimmer? C'ho quelli proprio da lettura, da vicino. No, già si vedono, sono abbastanza grandi. E così vedi come dico io, non c'è niente da fare. Allora, il mio c'è l'LC che è tutto al massimo come quello. Due ce n'è a metà, invece gli altri due qua sono chiusi. Due ce n'è più di metà, mentre quelli sono tutti e due chiusi. È tutto duccato il tuo baracchino. Sì, i trimmer non corrispondono con quello originale mio. Uno solo corrisponde, l'LC e basta. L'altro che c'è a fianco, il mio è a metà e quello è tutto al senso contrario. L'altro due che ci sono vicini, i miei sono uno a metà e l'altro è leggermente meno di metà, che non so manco cosa siano, e sto solo confrontando i trimmer da un originale a quello, che è la stessa radio, precisa identica. Poi dove c'è l'attacco all'antenna, vicino all'attacco all'antenna, c'è un ponte che non ho capito a cosa serva, comunque, che il mio non ha. Il mio originale, ti ripeto, una radio che io ho comprato alla GBC forse 3-4 anni fa, 5 anni fa, e l'ho accesa due o tre volte. Quindi è nuova, proprio nuova, cioè a fianco a questa, per carità di Dio, però l'originale, perché quella lì tua lì è stata veneciata in nero, questa non è colore suo originale, ma è completamente molto molto diversa all'interno come posizione di trimmer, ma anche allora, sì, anche le due medie frequenze sono tutte e due a sinistra, mentre le mie sono tutte e due a destra. Purtroppo le medie frequenze, le bobine, quelle mi preoccupano. Quelle preoccupano anche a me, infatti le mie sono tutte a sinistra, queste sono tutte a destra. Non ci sono abituato io, sinceramente parlando oggi. Non lo so, cosa dici Marco? Qua per i trimmer non ci dovrebbe essere problema. Le bobine è un casino perché quelle di solito si tarano in base a ogni apparecchio, cioè ogni apparecchio magari c'ha qualche piccolo spostamento e si tarano in base all'apparecchio, soprattutto alle medie frequenze. Quelle lo deve vedere un tecnico con tutto, con frequenzimetri, con oscilloscopi, generatori di segnale, capito? Il trimmer vabbè è una cosa elementare, quelli li puoi mettere grosso modo come il tuo, metà, grosso modo dai. E poi però deve vedere Vittorio secondo me, capito? E capire cos'hanno alterato nel modulatore soprattutto, capito? No, infatti, peggio di così non può andare. Casomai migliora qualcosa. Sì, sì, sì. Devo collegarlo perché non è sotto tensione. Sì, Marco, quei trimerini plastificati, ma gli altri, come hai detto tu, se non c'hai la strumentazione, stai toccando niente, non stai facendo nulla, perché ci vuole appunto un oscilloscopio, esatto, di spettro, frequenzia, per vedere un po'. Ma sentendolo da lui, era in abbastanza disonda, non è che era fuori frequenza eccetera. Il problema è la modulazione, che era completamente ed è completamente, perché io ancora non ho toccato niente, è completamente messa male, capito? Vabbè, oggi io l'unica cosa che posso fare, giusto così per provare, faccio adesso la foto col telefonino della posizione dei trimmer attuali, per non sbagliare. Li muovo, li metto in posizione di quello che c'ho io, che è nuovo. Ok, se non migliora niente io li riprendo e li rimetto nella posizione in cui erano prima. Vabbè, però non è un lavoro fatto bene, capito? Volevo togliere giusto lo sfizio per vedere, ma sono completamente tutti sfasati, tutti. Se devono andare uguali al mio, almeno i trimmer, quelli bianchi, devono essere nella posizione del mio per funzionare la radio, ma non che non sia stata modificata, non ci sia qualche altra cosa, non lo so. Vabbè. Mo lo proviamo, dai. Prendi Marco. Sì, stavo pensando, guarda, i trimmer, bene o male, sono uno la LC e va bene a manetta, uno sarà il trimmer della potenza, uno sarà il trimmer della deviazione FM, uno è il trimmer dello smitter, perché anche lo smitter ha il trimmer regolabile. Uno potrebbe essere il trimmer, quello è sensibile, della taratura del finale, capito, il finale di potenza. Poi cos'altro mi viene in mente? Uno potrebbe essere quello della squelch, ma nemmeno, insomma. Quello che io credo è che abbiano cambiato dei componenti sul modulatore. Che abbiano cambiato componenti sul modulatore e poi hai detto che c'è questo ponticello, un ponticello che nel tuo non c'è e non si sa che funzione faccia quel ponticello, capito Claudio? Dove è messo questo ponticello? Cosa collega? Boh, chi lo sa? Un attimo, Claudio, gli unici sono, sempre se non te lo ricordi, i VR14 che sarebbe il power. E poi la modulazione VR16, gli unici due. Ti ricorda l'Alan 48 Hold, sì? Noi parliamo del primo e del 48, che corrispondono VR14 alla power e il VR16 modulazione. Proprio quelli che non corrispondono. Vabbè, conta che la modulazione, la LC l'avranno messo giustamente a manetta. Guarda che dovrebbe essere vicino al trasformatore, può essere il trasformatore di modulazione. Vabbè, Sandro lo conosce meglio però, Sandro sicuramente lo conosce a menadito, chiedi un po'. Allora, se non ricordo male, il VR14 dovrebbe essere in fondo, lato destro, ingresso PL. Poi tutto lato sinistro dovrebbe esserci il VR16 che è la modulazione. Poi ci sono gli altri che sono attaccati, quelli sono i VR power della MFM. Proprio quelli miei sono tutti girati al senso contrario. Sono al senso contrario di quelli, capito? Ma ti serve uno strumento, tu ce l'hai lo strumento. No, vabbè, c'ho solo i cacciaviti induttivi e basta, lo strumento. momento c'ho il baracchino mio aperto, che è uguale a quello, però è nuovo di pacca, proprio originale, mai toccato, capito? Quindi guardando quello, guardando questo, i trimmer sono tutti, ognuno per i fatti suoi. Mamma mia, lì hanno girato tutto, hanno girato tutto a caso sicuramente. Eh sì, c'è un minestrone lì, c'è un minestrone. No, io intendevo lo strumento, Claudio, lo strumento. Vabbè, a prescindere che tu adesso vuoi riportare al tuo originale, va bene, qua non ci piove. Però io ti dicevo, lo strumento, giusto per controllare un attimino i watt, cioè quando vai a muovere il trimmer, con lo strumento ti accorgi se c'è variazione, capito? Se il trimmer sta reagendo, tutto lì era per quello. Sì, infatti mi accorgio quello della cosa 700, quella da incrociati, sino a 1 kW, c'è problema. Ce l'ho lo strumento, però mi asciuga. Tutto toccato, qualsiasi cosa, poi ti ripeto, in fondo dove c'è il collegamento del BL, che ci sono due resistenze, lì c'è un ponticello fatto con un pezzettino di filo, non so se qualche modifica di canali, cosa ne so io. Dimmi una cosa, un'altra cosa molto importante, guarda sul lato sinistro, ci sono quelle le bobine, conosci le bobine, quelle spirali, quelle in plastica che hanno l'avvolgimento, che all'interno hanno la classica vitina lì in carbonio, lì in carbonio, chiama lei matinite, ma penso che siano in plastica, guarda se corrispondono, se ci sono. Sì, ci sono, ma rispetto al mio sono girate tutte e due al senso contrario. Addio. E quelle, secondo il tuo punto di vista, dovrebbero essere le due medie frequenze. Le medie frequenze ce l'hai sopra, sul lato sinistro, vicino a guardia display, le medie frequenze sono lì. E classici bobine, quelle bobine diciamo caricate con quella vitina in batterite, quelle lì diciamo reagiscono un attimino sul finale. Giusto per farlo portare un attimino, oppure la togli completamente, quella lì togliendola completamente, che molti la tolgono, e diciamo che ti aumenta un po' i watt, aumentandoti i watt, però la modulazione si passa. Capito. Vabbè, dunque c'è un avviso dal mio a questo, è tutto toccato. Chi è che vuole entrare su 10? C'è Gianni. Buonasera. Saluto. Non lasciate spazio, dai, non si può entrare. Ciao Marco, così dice anche a te, ciao a Carlo, Claudio, dopo lui. Sentite un attimo. Bambini sull'uno, adesso dico, meglio viene Trump, che viene Trump. Ciao, buonasera, spazio già ne lasciamo, perché se tu parli assieme a Sandro io non capisco niente. Avanti, sa, comunque completamente riflesso, vai. È tutto masticato sulla macchina. Senz'altro sarà un po' casotto, vabbè, sono fuori pazienza. Puoi provare un attimino col tuo originale, riportare un attimino i trimmer e giocare un attimino lì, sennò poi se vedi che no, la minestra è uguale, non c'è cambiamento, ti conviene usarlo così, diciamo, per cavallo di battaglia, perché mandarlo diciamo a riallinearlo, mettere a posto, penso che non ne vale la candela, poi ognuno decide come meglio crede. Va bene, ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. vorrei. Dica, dai, buonasera anche a te, dai. E che paracchino si tratta, se non sono troppo piaggiato? Allora, 48 c'è Virginia nel camper, abbiamo messo nuovo il baracchino nel camper, adesso è un cristiano parlando, ricevendo e tutto. Fatto da casa mia sino a casa sua, sempre a Santiago Nove, con una radio splendida, pulita, eccezionale, capito? Fatto l'impianto ad hoc, è venuto qua alle 3, è venuto anche Marco, abbiamo fatto tutto, messo nuovo, il baracchino l'ho lasciato qua, ma io lo stavo controllando col mio, però c'ha tutti i trimestri spostati, tutto incasinato, no, sa, non è tocco, non è lavoro mio, e adesso lo richiudo e lo do a un amico che c'ha un po' di strumentazione, me lo faccio controllare a lui, capito? Avanti genio, beh, io che contento sia rinato, perché abbiamo verificato che praticamente il baracchino che non serve a niente, o perlomeno serve ma vuole messo a posto, ma c'è un quello di nuovo, si in ordine, tutto ok, un bel segnale, un bel funzionamento di tutto, ma soprattutto la radio bella, pulita, chiara, con il microfono normale, che immagina di tu quando qui ci metti l'altro microfono. Va bene, avanti Marco. Eia, naturalmente Beni, come già abbiamo detto, meglio 5-10 cm dal mic, perché è molto forte, quindi se parli attaccato tende a essere troppo forte, capito? 5 cm va più che bene. Vai Gianni, e bene, allora. E dimmi che cosa avreste combinato nel campo, cosa avreste piazzato? No, lui ci aveva l'Alan 48 Hold che gli avevano dato, però era tutto toccato, tutto hanno girato, tutto quello che si poteva girare l'hanno girato. Qui riusciva cupissimo, ti ricordi? Sembrava dall'oltretomba, sembrava. No, adesso ha risolto, diciamo che ha risolto. Beh, vedi, se lo vuoi dire, dillo, non ce n'è problema. Ma c'è un baracchino nuovo col microfono normale già. Un altro uguale a quello, però nuovo, senza essere toccato, col microfono normale. E ti dico che la modulazione sembra preamplificata addirittura. Molto bella, molto chiara, molto pulita. E l'altro è qua, adesso io l'ho richiuso, lo do a un amico e lo faccio mettere a posto, diciamo, a rimettere tutti i trimmer come devono essere messi, capito? Tutto qua, tanto ho fatto la foto io del mio, che sono originali, e così nel caso gli tocca a lui, li mette a posto lui. Io non ne do così, non mi piace sfacciabitare baracchini, ma non l'ho mai fatto e mai ne farò, capito? Sono cose che vanno fatte con gli strumenti, io sono sempre contrario a queste cose. Con gli strumenti, senza strumenti non si può fare niente, infatti vedi un baracchino che può andare bene, tutto schiacciabittato, tutto proprio completamente, non c'è un trimmer al suo posto. Già, fidati, 10 e l'ore, 10 e l'ore da casa mia accompagnata a casa sua, ok, con tutto che tu fai giro al contrario, stesso segnale tuo all'ingresso di Porto Torres, stesso segnale tuo, 9 pieno, anche perché quel baracchino non c'ha 4 watt ma ne ha 10. Nel viotto di casa sua è arrivato 5-5-5-6, cosa che prima non lo sentivo neanche, ma la radio è favolosa, è 5 perfetta, perfetta. Sì, non era l'antenna ma era l'apparato. Tante volte basta una pesteria. Se chi mi si può una parte così modificata, non sai come esce. Sì, infatti, magari si adatta anche così. Io per dire adesso sto con il DNA e con il come sono scelto. Già, benissimo, ma niente a che fare, sempre con l'altro. Regalami il Cobra. Stai bene così. Cosa già? Regalami il Cobra, mi ha detto Marco, io ho detto stai bene così. E' Esatto, Gianfranco, buonasera. No, ho detto Gianni, non so se mi hai sentito, stai andando bene, ma niente a che fare con l'altro, ok? Niente a che fare con l'altro, proprio un abisso, va bene? Questo è sempre il mio parere. Avanti Gianfranco, buonasera. Sì, buonasera. Non ho ancora acceso il telefono, il computer, adesso lo accendo. Ma certo che sì, no, c'ho solo l'altro acceso, che ne ho due io computer, adesso accendo quello dove mi arriva tutto il sistema lavorativo praticamente, dove mi hai mandato le mail. Bene Meda, capito già? Benissimo, ma niente a che fare sempre con l'altro, che piace a me. E lo so, basta l'altro. Ah, è l'altro, la cannonata. La cannonata, ma anche il Galaxy fa molto bene adesso. Va molto bene, però quello chiuso col Proxel, eccetera, rispetto a questo è molto più bassa la modulazione. Chiara, perfetta, ma quella la spinge molto, molto di più. Vai Marco. Veglia, naturalmente può essere anche soggettivo, cioè a qualcuno può piacere più quella di Gianni, dipende dai gusti, dipende molto dall'apparato che riceve, perché ricordo è questo apparato qua che sto usando adesso riceve più acuto, capito? Invece quello che ha anche Claudio, come si chiama, l'Intercacare 5005 è più caldo come ricezione, quindi ha una ricezione, una tonalità in ricezione diversa da questo qua, capito? E insomma dipende dal baracchino, dall'altoparlante che hai. Quello di Claudio per esempio è più professionale, giustamente, come altoparlante, no? Cos'è, esterno o interno? Claudio? Ma tutti lunghi, la voce calda della frequenza, viva caldo da tutte le parti. Ehi, Gian, ma Claudio, tu cos'è l'altoparlante esterno? Sì, dove siamo a canale 5, li punti a canale 5, è sparita Angela Ortu. Non ci picchia, ma siamo importanti. Chi è la Ortu? È una donna che è sparita, giovane, 40 e qualche cosa. Ah, l'ho letto sulla Nuova. Ma nel nulla è sparita. Sì, ce l'hanno buttata. Canale 5 lo stanno dicendo, la Barbara D'Urso, guarda, la peggior cosa che possa succedere è che Barbara D'Urso parli di Sassari, che te varia un raio di varia. Magari se n'è fuggita dal marito, chi lo sa? È parente di... vabbè, non si può dire qua, comunque. È un po' un casino quanto si dice a Sassari, però non lo so, comunque, sono cose che non mi interessano. Se la trovano, va bene, se non la trovano, rifeci un buon viaggio, uno in meno li punti. Sarà parente di qualche politico? Lui, peggio ancora. Peggio? E cosa c'è peggio di un politico? Un delinquente? Bravo. Vabbè, è sempre una cosa tragica. Sperando che la trovino tutta di un pezzo e non un pezzo alla volta. Se la trovano in bikini è meglio. Eia. Ciao Gianfra, ben sentito, ben entrato. Ciao Gianfra, domanda. Io ho accumulatore di tensione, lui si chiama, ad attaccare il computer. Che autonomia ha quello quando è carico? Esattamente in 170, 270 cosa c'è, 50 Hz, 220 cazzo, non ci vedo una mazza. Comunque abbastanza buono, perché li hanno cambiati e me ne hanno fatto uno. Se c'è uno spazio di tensione spegne lo stesso il computer, o almeno lo schermo, quando usavo il tubo catodico. Non tiene un cavolo, capito? Sì, che? Allà. Okay. Sì, io non è un granché, proprio per computer piccoli, era della Trust. Dentro praticamente ha un accumulatore al piombo. Quelli che trovi da Fusaro, da 6 ampere, 8 ampere, non dura niente. No vabbè, io ce l'avevo, Marco, non mi dite che no. A volte quando aspettavo il contatore il computer rimaneva acceso. Capito? Per quello che ovviamente, perché vabbè, sono col contatore nuovo, ho dato il massimo carico, non è successo ancora niente. Recentemente sono meno sensibili degli altri, non so, proprio poi ho 4 kW, quindi va bene, però sempre crea meno danno, magari stai facendo un lavoro e ti si spegne, invece in quell'attimo non è acceso, ti dà il tempo di uscire dal programma, eccetera, sempre meglio che ci sia. Ok, però sta vincendo oggi. Stasia, te ne sei sceso la sassa di contento? Quando zio Claudio di Lisi, azza, molla tutte azza, che mettiamo tutto a posto, perché c'è la serietà di fare le cose, capito? Non qua, serietà. Quindi hai visto, adesso tutto in ordine, mi ha mutato tutto, e tu c'è una cannonata bella anche l'antenna, la posizione dell'antenna, sia a zero di stazionari. Ma mi ha entusiasmato anche a me il fatto che tutto il percorso non sei sceso sotto il 9, sei calato un po' proprio lì quando hai fatto la rotonda di Vesce Porottore, e sei andato a senso contrario verso Sassari e ti sei messo nella tua strada. Allora lì è iniziato 7-8, ma più che sufficiente veramente. Io non ti sentivo neanche da casa tua col camper, quindi complimenti veramente. Ottimo lavoro, ottimo baracchino, ottima radio, ottimo tutto. Va bene, avanti Marcolino. Guarda, anche un lineareto andrebbe bene. Un 747 sarebbe la ciliegina sulla torta. Ma sai perché? Perché con quello arriveresti ancora più lontano di quanto già non arrivi. Ma risenti questi, aspetta. Adesso li metto la portante. Che canale sono? Che frequenza è? Sull'1 PMR, mi pare. No, sul 2 PMR, vale, sul 2 PMR, insomma, Billy che sei andato al giorno, bla bla bla. Mi l'altro, mi? Chi era, Mr. TVI? Mr. Gabbo di trucco, la chiusura, Mr. TVI. No, oggi ti ho detto che l'antenna è bella come antenna, bella, e poi non è grande, non è ingombrante, va benissimo, poi ha un buon risultato perché, ti ripeto, hai fatto tutto il percorso arrivando con un ottimo segnale e con solo la potenza del baracchino, quindi veramente bene, quindi lascia tutto così, tanto abbiamo fatto tutto qui. non voglio toccare niente, poi quando sei pronto con l'altro microfono facciamo le prove, si regola bene e lasci stare così. Però ti ripeto, anche col microfono normale quella radio è eccezionale. Tu c'è già 10 watt col baracchino, non ti cambia la vita se metti un linearino a 50 watt o un linearetto, capito, e ti dia 30-40 watt, non ti cambia la vita. Va bene così, lascia tutto così, non hai assorbimenti, l'impianto è perfetto, a regola tu per l'uso che fai del camper, che siete sempre tutti in compagnia, ti sentono tutti e tu arrivi meglio sicuramente degli altri, perché a 20 km di distanza, con solo la potenza della radio e all'ingresso di casa tua, 7-8 non è male qua a Sassari, non è male, capito? Pare ce l'ha avuto anche Gianni quello, non ce l'ha, non lo so. No, Gianni ha il 48 plus multi, quello invece è il 48 Excel multi. Excel multi che è superiore a quello? No, si equivalgono, sono varianti. Lì c'è il display, c'è anche lo Smith alla lancetta, mentre il 48 plus multi ce l'ha digitale, con le barrette digitali, capito? Comunque è bello mio anche il 48 plus multi, a me piaceva molto, molto. Anche quello blu è bello, col display blu. No, quello è bello perché è bello, con un bel baracchino, sinceramente parlando. Perciò va bene, meglio di sul garraggio di vera prima. Anche se mi te ne immagini, io ci avrei visto lì un bel 3009. Un bel 3009, guarda, c'è una ricezione anche. Un bijou sarebbe stato, un bijou, però vabbè, quello per quello che fa lui basta avanza, dai, tanto lui in banda laterale non va, no. Tu non ne fai DDX in estate, in primavera estate, UG? Perché se tu avessi le bande laterali potresti farle anche dal camper. Ehi, ehi, bene. C'è un vento, sento. Sta facendo proprio l'effetto fischio qua, del vento. Ehi, caspita Claudio, la Mantova era ferma da te, però quella VEU, caspita quando si inclinava la VEU, faceva proprio così, mi, ad arco si faceva. E quella è niente, quella volta a 45 gradi si fa, una notte eccezionale, la 510 RM. C'è niente da fare, poi visto che punta al sistema è libera, quindi viaggiano, ho visto le direttive oscillano, ma col cuscinetto di spinta, col blocco che ha, va bene, va bene, è un bel impianto, non è fatto da me quello, quello è fatto da gente che ne mastica, già lo sai, quindi è fatto molto bene. Io ho rinforzato tutto a poco, mi hanno regalato 3 EUG, non so se mi hanno regalato come tirà le fasce a cricchetto, belle mie, quelle dei teloni di camion, grosci mi, lui, vabbè, una giocata, mi sa che lo vai con, e ogni, anche da poco sono salito, ed erano belle tese, quando si muovono leggermente, tri tri, abbassate il cricchetto ed è a posto. Messo, genio, messo, però il grasso, quello che ho io, è che c'è un binghinoso, quello brutto, gli ho messo il grasso di vasellina, tutto in tondo e tondo, capito? Tutto in tondo e tondo. E il cricchetto, siccome vabbè c'è il perno che blocca, però io gli ho messo la fascetta per essere bloccato. Quando mi serve che devo tirare, taglio la fascetta e cricco. Magari ha ragione. Allora, quello che lavora a Cagliari, dai, con D, già hai capito, che fa un bel ripolvere, un'altra volta mi ha regalato 3, ma belli, sono da una decina di metri, 10 metri cliccano, 10 metri di nylon, ma grosso, bellissimo, veramente, manca la notte. Infatti c'avevo 2 fasce di tiranti in nylon, no, di corda in nylon, si era divulgati, ma su quello, ma non c'è come si addrizza l'antenna, il sugar, allucinante, c'è una forza quel cricchetto micidiale, E basta, non ho fatto altro, Marco. Per il resto hanno fatto tutto gli altri. A posto, tutto ok. Per quello che l'antenna ha visto, le direttive rimangono ferme, ma la verticale sopra il sistema, quella flette un bel flette perché è libera, non c'è niente, poi è abbastanza alta, ma quella piega, quella fa paura quando c'è l'impeccio o maestrale, mamma mia, allucinante l'antenna. E per quello li ho messi oggi, perché in nylon le corde che c'erano, sì, sono buone, nuove, però si possono sempre, lì si non aspetta, anche perché poi c'hanno i ganci, c'hanno i ganci, sono come c'è gli occhielli sotto la gabbia, quindi entrati i ganci da una parte e dall'altra c'erano i ganci, quando gricchi tu intendi, no, tu va bene. Adesso mi ha detto me le deve portare altre tre, la prossima volta che scende me le porta altre tre. Fatto la manta, va in picco, ci metto un altro tubo a 4 metri, Marco, una manta va, intanto cavo ne ho. E poi ci metto tre fasce di quelle da sotto la molla con una cravattina di quelle leggere e la tiro. A vedere se si muove, ciu ciu, no, è sempre a Caglia, io diciamo, nel camion sì, a casa non è alite, rientra solo il venerdì, capito? Sì, no, c'è anche la KF in camion, c'è la KF, le U e il barchino, tutto va a tre antenne, capito? Tre antenne. No, io da poco mi ha chiamato perché aveva rotto il microfono del baracchino, quindi a Caglia non poteva parlare, non c'era il microfono. Allora è passato qua, ne ho dato due io nuovi, di cui uno amplificato come quello che c'è tutto l'anno, perché c'è della Proxer e la dell'Alan, l'F20, una più del genere, quello lì, e più un altro normale ne ho dato, capito? Quella colonia esterna che ho dato per il baracchino, facciamoci la verba, altre cose che serviva. E la prossima volta che è sceso, siccome lo sapeva, mi ha portato quelle fasce lì, capito? E ci conosciamo una vita ci conosciamo una vita, da quando neanche guidava ancora, figurati, neanche guidava, perché il primo che prima faceva Sardegna Continente con Fiori, e poi da quando è entrato lì, ma io lo conoscevo molto prima, faceva tutte altre cose, capito? Tutte altre cose, vabbè, niente, allora avanti a chi tocca, Gianni, riprendi, Gianni è caduto, Marco. Via. Fra poco mangio qualcosa, dai, è quasi l'ora. Ho riguardato gli articoli della Nuova Sardegna vecchi, almeno qualcosa ho trovato, non tutto. E dice nel 2008, quello era stato praticamente un uragano, c'era proprio la tromba d'aria, cioè se tu vedevi da le nuvole, proprio c'era, come si vede Centro America, quelle cose là, c'erano le nuvole proprio fatte a vite, no? E l'occhio di ciclone era grosso modo sulla Sardegna. E altro che l'altro giorno, quello proprio aveva fatto un bel di danno. Ma tu non hai avuto danni, no, quella volta nel 2008? No, io ero via Pascoli, ne avevo solo la finale, la G5DV con la verticale, sempre VHF, la mantova, non ne avevo impianto così. Ma non ho subito nessun danno assolutamente, perché la mantova, io quando monto la mantova è sempre il tubo pieno, sempre il tubo d'acqua, non la metto pegate. Le staffe poi erano già montate, murate a muro da altra gente, non lo so di chi erano, io lì li ho trovate, lì mi sono agganciato. E quindi niente, assolutamente. Ma l'ultimo che c'è stato anche qua, per me è fortissimo, io non ho subito nessun danno. Nulla, niente. Anzi, per verità, ce l'avevamo dimenticati un po' in generale di stringere il supporto gabbia dove c'è il metro del mast, e quindi un po' mi ha variato la posizione della direttiva della tradimento grande. E appena fatto quel tempo bello, col tubo l'ho rigirata, l'ho puntata a nord, l'ho stretta tutta a cricchetto e adesso non va più da nessuna senso che per come ho l'impianto, per come è strutturato, per come è stato piazzato, non avrò mai problemi. Poi anche le sue micidiali sono molto molto robuste, molto, molto ben fatte. E devi far portare da chi è più preparato di te senza vergogna, perché vai a comprare poi delle antenne che non servono a niente, le monti e ti si sfasciano, l'impianto non è fatto bene invece. Nel caso mio ho fatto fare e mi sono trovato bene, tutto qua. Bisogna non avere mai vergogna di chiedere, di fare, di sapere. Avanti Gianni, doppio router, riprendi? Gianni si è emozionato, ma dormi così. Mi sono avvisato di 5 coma, io svegliati. Ci vado a mangiare a fifo mio, che poverino, per quello mi sta guardando con la testa bassa, ti ha dimenticato di dire, riprendi oggi. Male tutti i denti, tempi denti mari, Marco te la dà, sono di Marco, è stata a pignare, l'ha fatto molti lo studio. Fatta pignolo! Eia, era una cosa che non usavo più, perché ormai sto usando solo multicanali. Vabbè, a parte questo omologato, sempre 3009, comando laterale, capito? L'avevo preso, sai da chi? Da Montagnani, amico, il farabutto di Lucca, toscano, quello che non ti ha rilasciato lo scontrino, amico. Era seconda mano, però garantito era, vabbè che la garanzia di Montagnani non serve, e si è visto già quella volta con quell'altro baracchino, con l'Albrecht del 5008. Capito? E poi c'era questo problema, non si poteva sentire come era prima, ho detto mi sa che gli do quello. Quello esce abbastanza bene, gli hanno dato, praticamente è una modulazione che sembra amplificata, nonostante abbia il mic originale, capito? Bisogna parlare a 5-10 cm perché appunto se parli troppo vicino comincia un po' a distorcere, come se io parlassi così, insomma non va bene, bisogna parlare appena però 5 cm vanno bene, 3 dita, mi 3 dita dal mic. E una volta piazzato va meglio, è un abisso rispetto all'altro, era cupo, sembrava, gli aggiungeva 50 anni di età quell'altro baracchino, capito? Come voce. Ehi, adesso mi chiama la notizia di quello di Alghero. Ma non sai che stanno facendo queste telefonate dalla Croazia, dalla Grecia? Io non rispondo mai, adesso sto dicendo, ma che fatto dalla Grecia? Io non sono più. È un casino, è già, stanno facendo truffe di tutti i tipi, devi stare attento a quello che apri con le email, è diventato un troiaio, per non parlare dei soliti, ogni giorno, qua ci chiamano ogni giorno, quanto è la team, le offriamo il cambio tariffa, la Wind, la Telecom, tutti chiamano. L'altro giorno mi ha chiamato uno della Wind, mi ha tenuto un bel, io gli ho dato un po' di corda, ho detto mi richiami alle 8, tanto sapevamo che ne parliamo con mamma, ma tanto non è disposta. Quando gli ho detto che non ci interessava si è rimasto male, ha chiuso subito, prima ha tenuto mezz'ora e più. Cioè questi sono dei disperati che sperano di vendere contratti perché loro vanno a provvigioni, ogni contratto che concludono immagino siano, si prendano un tanto, ma non puoi rompere le palle alla gente tutti i giorni o più volte al giorno a cambiare contratto telefonico, a cambiare contratto cellulare, a cambiare contratto anche della luce elettrica, mi. È diventato una specie di stalking legalizzato, che una volta non arrivavano telefonate così di rompipalle con questi call center, adesso è diventato una specie di stalking, capito? Magari chiudi il telefono in faccia e quello ti richiama ulteriormente, è fatto apposta proprio. E basta mandare quel paese, come faccio? Sto lavorando per tutti, sto girando, e una volta gli ho detto, no, gli volevo dire, una volta gli volevo dire, capisco che voi siate disperati, ma non potete rompere le scatole alle persone così, a tutte le ore. gliel'ho detto però, perché magari poi ci rimane male e si suicida. Poi una paroletta così, come il lavoro, il coso, ma loro non ne hanno colpa. Ma questo che per te era un matto. Sì, mi voleva convincere a fare la linea fissa Wind con la scusa della fibra, c'è la fibra, dice le diamo 100 mega, ma io dove me li attacco questi 100 mega? Cioè per navigare, per guardare video YouTube, per la posta, non me ne faccio niente di 100 mega, poi dice, Tiscali c'ha problemi, non funziona bene, ho detto no, guardi, veramente Tiscali funziona benissimo, perché loro, sai cosa fanno? Non vantano solo il loro prodotto, ma ti denigrano i prodotti degli altri. La Tiscali va sempre bene, non ha dato problemi di linea. E funziona tramite il doppino di rame, no? Tramite il filo e il filo del telefono. Io c'ho 10 mega, ma chi li sfrutta 10 mega? E lui mi voleva dare 100 mega, dice, ma Tiscali sappiamo che funziona male. Ho detto, no, frena, Tiscali funziona benissimo. Quindi io non ho la necessità di cambiare operatore. Pur sono addestrati proprio a venderti il prodotto, capito? Ma come non attacca? Vai Eugenio. Sono rientrato, eh? Eugenio, a voi non mi va di dire da mai fare a me. Ormai sto imparando. C'è niente da fare. Sì, appena di ponente c'è, nel fianco, però. Maestrale c'è, maestrale c'è, il vecchio è già calato, quindi adesso l'antenna è al senso contrario mio, o Marco, adesso sta flettendo, prima fletteva dalla strada verso l'interno, adesso dall'interno verso la strada, capito? Va bene, va bene. Sono rientrato comunque, avanti, oggi ripeto, già si vede che carreghelli, già si vede, vabbè. Sono 7.25, io alle 8.20 mi sistemo il cane, ma ci ho dato a mangiare, più vedo, si è già tagliato. 8.20 mi sistemo il cane, e poi alle 8.30 c'è Juventus Napoli Coppa Italia, quindi un po' di calcio stasera, e tira campà. Avanti Gianni! Se poi io ce la vuoi far sentire questa radio dove come esce. Quante volte hai fatto la sentire? È andato l'aerogamper. Va, dammi retta, credimi, lo sai, io sono schietto. Una cannonata, è Renato. Dal giorno alla notte, proprio un baracchino suo è qua, e lei sulla sedia, pronto a partire, capito? E lui c'ha tutto nuovo al campo, ma impianto fatto ad occhio, è salito alle 3, c'è andato che erano le 5. Oggi 39 sono un bel parole. E se siamo quasi a 20, già si sente parecchio qua in alto, capito? Quindi 10 in più, vabbè. No, non so che è soltanto balluta io. Non mi spavento proprio per niente, guarda. Ho detto con quelle fasce ho risolto il problema. Adesso ne ho 3 lato strada. Adesso le altre 3 stacco il nylon che c'è, appena me le porta, e le metto un lato interno. E io penso che mi bocca giro barato, ma te no, nei ghiacci. Vabbè, comunque già, il vento c'è perché si sente qua su, già l'hai visto. Capito già. Credimi, tu non c'eri, però abbiamo fatto le prove, è partito da sotto casa e sino all'uscita via l'Italia, l'Equator era sempre 9.20, poi ho iniziato a posizionarsi sul 9, sino all'ingresso di produttore, sempre Santiago 9, sempre, ottimo segnale veramente, ma soprattutto la radio, bella, chiara, forte, era tutta impattata, guida, mamma mia, guarda. Speriamo che il DM1000 si adatti a quell'apparato. Vabbè, se non si adatta, Eugenio lo sa, lui prepara le connessioni fatte bene, se non si adatta lo prende e se lo conserva, ok? Se lo conserva, quando poi mettiamo a posto l'altro baracchino, se lo userà con l'altro baracchino anche a casa, Eugenio, anche a casa, e lì usi il microfono normale, perché Marco l'hai sentito anche tu, addirittura se se lo avvicina molto alla bocca è un bel amplificata, tenendola a 5 cm dalla bocca ha una radio splendida, spettacolare. Sai chi l'aveva lodata quella radio? Roberto Quadratto, un giorno stavo parlando con lui, con quel baracchino, e mi ha detto: scusa Marco, ma che microfono, che apparecchio stai usando? E gli ho spiegato tutto, dice: ma ha amplificato il microfono? Ho detto: no, no. Mi ha fatto parlare anche lui un po' 5-10 centimetri, no? Dice: guarda, per essere un baracchino normale sembra un microfono amplificato, non sembra un baracchino normale. E spinge abbastanza la radio, dai, vabbè, meglio così, dai. Io mi sto scaldando la pappatoia, dai. Già sono qua, sto andando e venendo dalla cucina. Eia, va bene, avanti già. Beh, ma non è normale, gli è aperto l'LC quell'apparato. No, io non ho giudicato nulla, Marco mi ha dato, ti dico che è veramente molto bello, non conoscevo, non me la ricordavo, l'arancione è bella, sono un sacco di canali, esce bene, il cacchio esce bene, 10 watt, 8 modulati, esce molto bene col microfono originale già. Ma non ho capito che apparato è. Uguale alla tua, uguale al 48 c'è tu, cosa c'hai tu, il plus cos'è? Il plus. Allora, questo è l'Excel Multi, Excel Multi, display cristalli liquidi più smitter a lancetta. Molto bella già, ma funziona veramente bene, ti dico che è veramente il genio. E sta fatto tutto, sa, se il produttore sta cantando, bello quel campo di genio, complimenti. Ah, Marco lì, si sì, lo presa, FD, ah, yeah, si fermo, vedi, bello, bello, torna a cantare, bellissimo. L'hai ordinato tu così però, oggi, l'hai voluto tu così, bello, bello, veramente, complimenti, bellissimo. Bello, anche la cabina guida molto bella, tutta in radica di noce, molto bella, molto molto bella, veramente, complimenti. Agguditti come ti girisini, avanti Giannetto. Io ho visto l'altro, però, da fuori ho visto, però l'altro è stato dentro, è stato fuori. Sto pranzando, non posso parlare. Melanzane e peperoni ripieni. E beh, la lingua avete perso. Ma non rispondere, Claudio né Gianni. Dai che c'ho la bocca piena. Che sta entrando qui per vedere questo apparato? Dimmi Gianni. Sto entrando a vedere l'apparato. Eia, ma lo riconosci subito. Smetta la lancetta più display cristalli liquidi. No, ma me ne sono accorto che non sta andando con 4, perché... superato San Giovanni eri sempre sul 9, capito? Quindi si vede che l'impianto è a posto, l'antenna è a posto e la radio sta funzionando bene, cioè, alla grande. Claudio, però quanto sapevo io, quello era 4 watt, 4-5 watt più o meno, non 10 assolutamente, che io ricordi e poi non lo so. No, non sono 4 watt, lì ce ne è 8 pieni modulati, tranquillo Marco, era sempre sul 9, poi guarda, quell'altro che ci aveva, a prescindere dalla modulazione, come entrava nel vicolo di casa sua non lo sentivo più, invece come ha girato proprio per entrare nel vicolo, in mezzo agli alberi era 5-5, proprio la radio spettacolare, segnale 5. Beh, modulati sì, modulati posso capire. Vai Gianni. Hai il frequentino qua? Sì, se lo selezioni sì. Perché qua c'è tutto standard di radio. Costa 104,99. Quanto costa? 100? 104,99. Vabbè. Ottimo, ottimo per la zuppa. Bene, bene, bene. Solo? E quello qualche anno fa costava un baby. Sì, magari quando è uscito Marco, poi adesso avanti di rigare, amici baracchini, capito? No, perché c'è tutto quello che serve, infatti. No, è bello, esteticamente è molto bello, a me piace. Sì, è 10 watt con la radio, 10 watt, quindi sicuramente 8 li tira fuori i modulati, perché ti ripeto, il tuo segnale col baracchino vecchio, non dal vicolo di casa tua, dal vicolo di casa tua, non ti sentivo più, con quello invece di Santiago 5, radio 5. E vabbè, la prossima volta le misuriamo la potenza, vedete, io mi sono dimenticato di scendere nel wattmetro. avremmo misurato la potenza, ma comunque si vede che pompa bene, che è un bellissimo barattino, esteticamente e anche la funzione è molto molto bella. Va bene, va bene. Quanto avvicino già? Prego, così questo non c'è qualcosa di là, Marco, quello... Quale? Dimmi già. Penso che faccia qualcosa lì, che cosa fatto tutto nuovo. Tutto rifatto già, l'ha fatto Claudio nuovo. Tutto nuovo già, tutto nuovo, eliminato tutto, tutto nuovo. Ah? Io con questo difetto ce l'ha anche il mio, lo sai. Secondo come ho visto ma il tuo cosa c'ha? Lo spinotto attaccato al baracchino o è diretto? La lampada normale c'è lo spinotto, ma anche questo è diretto, però ho tagliato tutto, è fatto nuovo, messo in mammute, è collegato diretto al cavo che gli arriva dalla batteria con l'innesto spinotto rapido, capito, che può sganciare, lo può sganciare lui, capito? No, ho fatto un bel lavoro apposta, visibile tutto, tutto, e anche questo che mi ha dato, che faceva schifo il cavetto, l'ho già rifatto nuovo, così quando lo do a mettere a posto almeno c'è il cavetto nuovo, era tutto giuntato, diverse sezioni di filo, tutto, però non ero che aveva fatto il genio, glielo avevano già dato così. Invece gli ho fatto tutto il cavetto nuovo, cioè da una cinquantina di centimetri, da 70 centimetri. Ho aperto lo spinottino, ho messo i fili direttamente nuovi dallo spinottino, saldati, e portato fuori il rosso e il nero, che io ce l'ho sempre. E così è ordinato e pulito, stessa sezione, tutto originale. Se no lo dai anche lui, non ti devi trovare la china di carriera, perché è in buone condizioni, è un peccato, solo che mamma mia com'è dentro, proprio hanno toccato di tutto e di più, guarda. Sì, anche perché quando uno va a toccare i trimmer dei baracchini, soprattutto di questi baracchini così adattati, deve avere la strumentazione per poterlo fare, capito? Non si può fare, non si può fare, perché vedi, fai intuito, tocca quello, tocca quell'altro, il baracchino non esce più, perché esce veramente molto molto male, molto molto male. Quindi adesso bisogna che lo dia a questo che conosco, che c'è la strumentazione, c'è il laboratorio, qua a Sassari, non è Vittorio, perché Vittorio non ha tempo, non sta facendo di queste cose un altro, e glielo faccio mettere a posto con la strumentazione, capito? Le porto, c'ho la foto fatta del mio, delle posizioni dei trimmer, però lo faccio mettere sotto strumentazione. Lui c'ha un esattore di spettro, c'ha frequentimetro, c'ha tutto, e qualche baracchino già lo aggiusta, e vediamo che cosa ne salta fuori. Oggi non ti prometto niente, perché può essere pure che abbiamo toccato qualche altra cosa, non lo so, ma rispetto al mio, ti ripeto, sono tutti toccati i trimmer, sì, ti ripeto, un peccato, perché esteticamente è anche in buonissime condizioni, ottime direi, non a parte il colore, vabbè che è nero, però io il colore diciamo quasi originale dell'Alan 48 c'ho la bomboletta nuova, l'avevo comprata quando ho fatto i coperchi a quello di Luca del Monte, però si può fare anche originale, rimettere il coperchino originale una volta che è a posto, e te lo tieni di scorta, ti ripeto, se Bambino mi dice che è fattibile questa cosa, ma penso di sì, con gli strumenti giusti si può fare tutto, ma toccarlo così con i cacciaviti, rimettere il trimmer, no, non va bene, lo facciamo fare bene oggi, tanto va, tu sei a posto, il gamper sei a posto, a casa sei a posto, fretta non ne hai, con calma questo te lo faccio mettere a posto, te lo ritorno e te lo usi, te lo tieni, capito, te lo tieni di scorta. No, adesso domani come esco ci passo il laboratorio, devo porto, magari me lo vado da avanti pure, non c'è problema, e poi lo proviamo, capito? Vai Gianni. E vabbè, quando si tocca le cose, vabbè, non so la presentazione, bisogna farlo fare. Che fa di trimmer magari, invece che girare quello del volume, di un altro, magari sono delle frequenze e ti fa quel lavoro un po' più di sotto. Sì, chiama infatti, tocchi, questo non è, non succede niente, dai che riuscì, proviamo questo, nel frattempo li hai toccati tutti, l'unico giusto è quello dell'LC, perché è uguale a quello che ho io, anch'io l'avevo aperto, ho portato l'LC al massimo, l'unico è quello che corrisponde al mio nuovo, gli altri rispetto al mio sono tutti girati a senso contrario, capito? Tutti. Si prova a rimettermi come sono nel tuo, Claudio. No, già non ho senso di fare queste cose, non voglio, io l'ho fatto un intervento nuovo, grazie Eugenio che lo do a uno qua a Sassari che abita qua da me, capito? Antonio Alessio già lo conosce, che c'è il laboratorio qua in via Umana, a Ravino, e glielo faccio mettere a posto, lui c'ha tutta la strumentazione, qualche baracchino già lo mette a posto, e quindi glielo do, domani mattina ci vediamo, glielo porto e glielo faccio mettere a posto, perché non voglio toccarlo, io non sono un tecnico, ho capito. Avanti, sì. Buonasera a tutti. Buonasera Massimiliano Bulgazer. Buona, non so chi c'è, ho acceso adesso, ho sentito a te, a Gianni, poi c'è qualcun altro. C'è la Carrata Pignara, c'è Eugenio, ci sono io. Buonasera Massimiliano. Capala, buonasera a tutta la ruota. Avanti, Eugenio, appena rientrato. Docciato. Adesso entro a salutare. Tutto a posto? E lui che è a posto. E lui ha detto, vogliamo a posto, usate una tutti. Ciao Massimi, ben entrato, buonasera. Avanti già. Un attimino che vado in bagno, bravo tutti. Mi prendete. Avanti Marco. Aspetta che sto mangiando. Volete il routino? È facile, vabbè. Fatelo fare qualche due. No, non mi viene, dai. Ma te le immagini? Mangio il piatto unico, non c'è frutta, non c'è dolce, è inammissibile, adesso dobbiamo aspettare le 8 che apra l'origa e compriamo un po' di frutta e un po' di dolce, soprattutto il dolce. È una cosa che piglia l'auguri oggi, eh? È una cosa che piglia l'auguri. Sì, ma lui non pranza, non cena, se non c'ha il dolce, che è una cosa che non va bene, o lo mangi a pranzo o lo mangi a cena, capito? Non va mangiato così a pranzo, a cena, a colazione, il dolce, no, assolutamente, è molto pericoloso. Aspetta. E cosa ti devo dire oggi? Lavoro a casa, un mese di lavoro, un mese, un casino là. Questi giorni ero un po' incasinato con la macchina, quindi non arrivavo, dolce via. Ma si è a posto della macchina, Massimiliano? Sì, la punta l'ho rottamata. Rottamata? È peggiorata? Claudio, l'ho ritirata ieri sera, e cosa faccio? Non posso capire, no? Uguale a quella? No, ho preso una Toyota fuoristrada. Toyota fuoristrada, ti stai dando la pasta gioia, Sì, per fare 10 km lì, anzi 20, deve andare da tu là. Ce l'ho già avuto io fuoristrada, lo conosco bene. E ho avuto il Discovery D5, 2005 turbo diesel, io lo so cosa vuol dire. Questa è Toyota, però diversa la musica. Io l'ho avuto il Toyota Pajero. Il Pajero 2005 intercooler, lo stesso, bianco, bellissimo, poi avevo cambiato e avevo preso il Volvo, il V40, e io andavo a Perfora tutti i giorni con quella macchina, non c'è idea. L'inverno era un divertimento, quando pioveva era un bel sicuro, però minchia, me ne mangiava isso quanto consumava. Ok, io se vedi la macchina che ho preso, cazzo, per spingerla devi mettere i piedi fuori. Come per spingerla, cioè? Più minore da diradoia. Ti conosco, io ci calo nei tuoi tranelli, perché so che sei sempre un buon gustaio, però mamma mia, è allucinante quella macchina, credimi, io guarda, alla fine poi ho ceduto, perché volevo fare il grande, ma ho ceduto, dopo la volata a un pastore di Perfuras, che me l'aveva pagata anche bene. Io con i soldi che ho preso da quella ho aggiunto qualche cosetta, avevo preso un V40 seminuovo da Mele, dalla Volvo. capito, ma ero Renato proprio, quella no, lui, non è macchina per me, no, per carità, è anche un Schumacher. Ma cosa? Ma il Mercedes? No, non mi piace, non mi è piaciuto il modello di macchina. Ma la stai vendendo davvero, io dico, no? La stai vendendo davvero? Possiamo parlarne. Quanto? È nuova, nuova quella, cos'è? È J. Scusate un secondo, Un attimo solo. Sì, cos'è di targa? È J, di che anno è? 2016, 2015? E che anno è, OJ? Sì, 2015 mi pare, sì. Fine 2014, inizio 2015, pare sia IJ, è Juliet, no, è Yankee mi pare, Yankee è non Juliet, è Yankee. Sì, ma perché c'è le cose fra macchina, bellissima, a me piace invece quella lì, a me piace quella lì. Però c'è mia figlia, dicevo, con questa, a lei piace la serie 1 della BMW, quindi non vediamo, perché la 147 c'ha già 200.000 km, quasi 180 e qualcosa, però è perfetta. Mi ha GPG 400 euro la carina, tutta tagliandata da Franco, che è l'unico che non vola molto bene. Però abbiamo fatto di tutto, cambiato tutte e due manicotti, turbina di dimetro, aria, tutto, cerchiamo distribuzione, fatto tutto quello che c'era a fare. Quindi se la vendo quella, oramai il valore non ne ha più, però chi la prende fa un affare perché è molto bella, c'è altri interni in pelle, c'è tutti gli opzioni, c'è tutto. Claudio, racconta quanto era pulita la mia macchina. No, non mi vieni più a pigliarmi. Gianni! Pura la sabbia dei gatti c'era, la ciotolina con la sabbia dei gatti. La ciotolina con la sabbia dei gatti, un montone di garraggio c'è la macchina, un montone di garraggio per 30. In chi mi vuole ci metto e poi fare in passo. Sì, ho ripreso. Mamma mia, come sto, non si vede. È giunto Marco Condo che aveva un appuntamento sotto casa. Conquista la macchina, Trento, ma io penso neanche uno che lavora in cantiere sia così. Tutta piena di sabbia, di gatti, Trento, un montone di garraggio. Figurati, pensa che dovevo pulirla dall'estate scorsa, dalla sabbia e dal resto, c'è di tutto, c'era carta sparsa, lattine, bottigliette di plastica, sabbia, proprio sabbia di mare, di tutto c'era. Una cosa allucinante. Dall'estate scorsa dovevo pulirla perché Ivan l'estate prima me l'aveva pulita dentro, ma me l'aveva fatta uno specchio, me l'aveva fatta. Poi con l'estate, sai, la sabbia, il coso, non ho pulita, no. E mi pare che non mi conviene. Mi faccio un'altra estate e poi la pulisco. La pulisco dopo quest'estate che verrà. Ma cosa devi pulire? Cosa devi pulire? Cioè lì si andava le bucate, burro di sedili, anche sotto le sedili tutto bene il garraggio, buste di Mondessa, sabbia di gatti, la terriera con la sabbia, ma cosa tiene il gatto in macchina? La ciotola dell'acqua, tutto pieno di musci, piuti, pieni, madre de Dios! Infatti io speravo che prendessi la tua macchina, ho detto se mi chiedono di andare in macchina per andare al bar. E infatti poi io ricordo la faccia che ha fatto Claudio all'inizio, i ginocchi vivo un'antirapica. No, io le chiavi ce le avevo su a casa, se no saremmo usciti con quella che era fuori, capito? Non è un problema, per non salire su siamo andati, ma era meglio andare con un camper, oggi. Io credo, netto, fiammante, mamma mia, guarda, Massimiliano lavora in cantiere, ok? Io tutte le volte che, poche volte mi sono seduto nell'appunto, ma manca a paragone con te, manco a paragone, ma per carità, Massimiliano. Purtroppo lui la macchina non la usa magari neanche tutti i giorni, quindi molla tutte le chive, sennò fotte le palle, capito? Vabbè, questa adesso è pulita perché me l'ho ritirata ieri sera, quindi l'hanno lavata loro, ma adesso in mano mia già un poco di più la lobbiglia. Ascolta, simile a quella che c'ho io piccola? Guarda, ti ho mandato la foto. Ma tu eri? Non l'ho vista. Ma la guardo. Non si vede molto bene. Guarda lo stemma cos'è. matta che te ne varia. Sì, la matta te ne varia. Questo è tutto muso, mi, perché dietro quando allunga la mano ci mette la mano oltre il cofano. Ma questa è Toyota, Massimilia. Cosa? Questa è Toyota. Sì, ma non è fuoristrada, no? Una e due. Ah, quella piccola. Bellissima, raga. Piace un bel aria quella macchinetta. Guarda, ho comprato la Smart, che è uscita anche quella, che è molto simile alla Smart come macchina, no? Nel senso che dietro è tagliata e corta, però è molto bella, sì, sì, questo è un 2008, bravissimo, sì, dalla targa, dalla targa, molto bella, anche il colore, nera, Massimilia? No, è grigia, fuori Londra, metallizzato. Bella, bella, dai, bellissima. Allora Daniela è contenta, dai? Daniela è contenta che dato va all'Astra, quindi no, non ha problemi, non la vuoi, c'è troppo minoretta. Ah, l'avevi inviati. Io ho visto l'aria, già la sta usando la piccolina, che si è accorta che con 10 euro di benzina fa tutta la settimana. Con 147 vivono i euro ne ha due lì. Allora, Eugè, fermo viaggi di mobili, le 200 mi piace anche a me, una bella macchina, però è troppo ingombrante. Per Sassari ci vogliono macchinette così, come quella di Massimo, io ne ho preso un'altra piccolina perché quella grande la stavano distruggendo, sportellate, a coso, capito? Io ne ho preso una piccolina che pian pianino sto mettendo a posto, adesso a luglio entra, prima d'estate entra direttamente in carrozzeria da Robby e la faccio fare tutta nuova. Vediamo Gianni, Gianni hai finito col bagno? Sì, che ce l'ho la multipla. Non so quale viso tu di multipla. Sì, sì, quella ce l'ho sempre. E mi sabato gli ho messo 400 euro di gomme. No, mi si è fermato in poche parole, c'avevo un appunto, mi avevano regalato da 1200 valvole. La usavo così per andare a lavorare. E mi si è inciudata domenica scorsa, si sono bloccati i due cilindri. Come mai? Cosa ne so? Non lo so, stavo andando rientrando a casa, ma piano, è accoppiato. E sì, ho fatto il cambio dell'olio una settimana prima, sarà malissimo che si è bloccata, e il mare è arrivato proprio. E vabbè, io devo fare. Adesso ci abbiamo preso questa qua, giusto per spostarci. L'aria è carina comunque, va tutto. 1000 di cilindrata, vite elettrici, chiusura centralizzata, ABS, aria condizionata, servostato, doppio airbag, altro di voi. Sì, sì, concessionaria. E cosa mi interessa? Ma dal Torino l'ho presa. Ingo si chiama quella. Bellissima macchina, veramente. Mi piace un bel. È piccola, oggi. È come la Smart rimane, dai. Però è bella, molto bella la macchina. Bravo, bravo Max, bravo. Te ne la vecchia, mi raccomando, tappeti puliti, sempre ordinata, capito? Se no, vieni la parcheggia e gira, che ti piglia la gente intanto a travagliare. Io sono abitua. L'importante è che non la fai diventare come quella di Marco. Mamma mia, come sto, Gianni, di tutto e di più. È meglio un cassonetto di Mondezza. Pregati, ma lo sai cosa ho trovato? Avevamo smarrito una busta della spesa dove c'erano piatti, roba da mangiare, e l'ho trovata poco fa. Uso questa bustina, ho roba dentro, e ma lo sai? Ed era la bustina della spesa che non trovavamo un'altra volta. Qui, lì se scavi trovi tutto, mi trovi reperti archeologici anche. Oh già, ma è mai buci porticati dove? Con la terriera in macchina del tappeto e la ciotolina dell'acqua? No, sai cos'è? Noi lo portiamo al trasportino, no? Ogni tanto. Poi lo lasciamo libero in macchina, in modo che se deve fare la poppola fa nella terra. Poi la ciotola per bere, capito? Però alla fine, cioè, quelle sono cose che mette mamma. Io sono contrario a mettere quella roba lì, perché poi la mette e la lascia lì. E rimane questa terra, questa ciotola di acqua, non va bene, un bordello è quella macchina. Scusate che riprendo io che mi devo chiudere là, che dobbiamo fare una commissioncina. Mi ha fatto piacere sentirvi, salutarvi, ci sentiamo, buona serata a tutti, cordialmente. alle prossimine, dai. Riprendi Claudio, fa girare, ritenetevi tutti salutati. Ciao. Ciao Massimi, un bacio al Graia e saluta Daniela, dai. Quando si assassa già lo sai, passa a trovare. Ciao, un abbraccio. Vai già. Ciao, ciao Massimo, una segreta, dai. Siamo partiti. Scusate, sto ridendo per la storia della macchina. Ciao Massimiliano, dai, ci sentiamo. Eia, e sai cos'è? La dovevo pulire io, giustamente, però se tante vado gli do una spruzzata all'autolavaggio fuori, ma ha detto quella lascio così. C'è di tutto, bottigliette di succo di frutta, ma guarda che è una cosa incredibile, una cosa incredibile, molto vissuta come macchina. No, no già, ma tu ce l'hai tanto senza vederla. La sabbia, Marco, la sabbia, il gatto va bene che va lì nella sua cosa, ma anche tutto il sedile è pieno di sabbia, perché la bui, le unghie e cose, si cuzzoleggia il sedile, è tutta piena di sabbia, che sa macchia. Me la vedete o dici più? No, ma quella è sabbia di mare, quella è sabbia di mare perché portavamo lo zaino con la sabbia sotto, quella sedietta da mare messa lì, è un casino, sì, è da mettere a posto, da pulire, dai, anche perché fa la revisione mia a giugno, no, di certo non gliela porto così, no, sennò me la bocciano. Guarda, qua ci sono testimoni, io ti regalo un autolavaggio gratis, ok? Tu prendi una busta di Mondezza, vieni sotto casa, noi mettiamo tutta questa roba, questo montinaggio che c'è nella busta di Mondezza e te lo rompiamo lo gassonetto. Poi andiamo a Osci, io te la faccio tutta aspirare e pulire dentro. Te lo regalo io, guarda. Ah, da tuo, come si dice, cognato, genero, boh. Il mio genere, il mio genere, non ti preoccupare. Non avevo la pipetta e cavalieri, non tocca se, peggio un comodo. Diciamo che è una macchina molto vissuta. Allora, guarda, l'esempio, ma l'esempio che lo dà anche a me, a Gianni, già, con tutto rispetto, ma l'esempio a me, a te della macchina ce lo dà Valerio. Una cosa allucinante. Una cosa allucinante, se vedete la macchina di Valerio sembra che stia uscendo dalla fabbrica, esternamente e internamente. Una cosa spaventosa, veramente da 10 lore. Valerio tiene bene la macchina. Già, penso che ci dia lezione Valerio, e noi due siamo molto pignoli, ma ho visto quella di Valerio da paura. Ehi, ma diciamo che quella di Valerio è da paura in senso buono, la mia è da paura in senso cattivo. Quella di quella Valerio non è nuova, è una bellissima macchina, non è nuova, ma tu vedi come la tiene, come tiene dentro la macchina, cioè non ce n'è, non ne ho mai viste così luce, quando siamo visti ti ho sempre fatto i complimenti. Veramente è molto molto molto pulita, pulita ma con la P maiuscola, capito? Con la P maiuscola. Io e Gianni siamo molto pignoli, però penso che Valerio sia ancora più pignolo, così è Valerio. Ma sai cosa ci vuole lì? No, ci vuole il pulivapor, ci vuole il decontaminante NBC, nucleare, biologico e chimico, quello della Cristianini, il BX24, bisogna proprio decontaminarla quella. E vabbè, sì, perché sai, ti bevi un succo di frutta, e poi lasci lì la lattina, così qua mi capita. Vabbè dai, comunque sì, prima della revisione per forza la devo pulire dentro e fuori, anche perché ha piovuto quella pioggia sporca del Nord Africa e quindi l'ha sporcata anche fuori, prima se no non era tanto male. Bene, dai, riprendi Gianni. E anche la mia adesso è così, la con la pioggia, la prima l'ho fatta e la tutta bella la vedo, rimasta tutta. Ma fuori con la pioggia sporca l'ha tutta sporcata, questo lo distrugge per la. Beh, perché la mia sporca è quella che è fuori, o Marco, non so, io c'ho il genero che c'ha l'autolavaggio, quindi lui come vede la macchina sporca se la prende, la lava ma la riposteggia, capito? Quindi non è sporca, e dentro è lucida lucida, vale, è normale che fuori la macchina sia sporca, perché purtroppo ieri ha fatto acqua sporca, domenica lo stesso, anche Reggiani è molto, molto pulito con la macchina, internamente la macchina deve essere a posto, bella, pulita, fiammante, profumata. Se tu vedi quella errata Pignara, ma manco i giorni che fuggi. Guarda, se io dico che se do passaggio a questi profughi africani si rifiutano di entrare in macchina. Roger, tu, per come vi ho campo è la stessa cosa, ma Marco non lo sapevo, guarda io, Gianni, tu, Valerio, non ci sono dubbi perché ho avuto già modo di vedere lui e di vedere la macchina e di vedere altro, ma ti ripeto, molte persone come Marco, non è Marco da solo, perché molti miei colleghi la stessa cosa, se ne fottono altamente, la macchina la tengono sporca. Però a me non piace perché la macchina fuori si può sporcare purtroppo, ma dentro deve essere sempre pulita, e quindi è così, io ragiono in questa maniera, ma in tutte le cose, a me piace molto l'ordine in tutte le cose, anche a casa mia le cose devono essere messe al posto giusto e prese soprattutto al posto giusto, andare a cercare le cose, no vabbè, io qua ci vivo in questa stanza e chi è venuto qua diceva Cavri, e Cavri sono lì, si vedono solo entrare dalla finestra, poi non li segui più perché non c'è un cavo per terra, non c'è niente, non si vede niente, è tutto in ordine, è tutto pulito, ma queste sono fesserie. Il mezzo di trasporto dove uno ci vive, forse Marco non ci vive, non gli ha fatto niente, ma Gianni che ci viaggia tutti i giorni per andare al lavoro, è a contatto con persone, è famiglia eccetera, in quelle condizioni è assurdo poter viaggiare, proprio assurdo è la parola più piccola, se no è vergognoso. Pensa se avessi un camper, era io e la trattassi in quelle condizioni. Sì, però vale, non tocca se. E oggi il tuo lo puoi anche lavare per terra, perché non è una macchina, è una casa a quattro ruote, è diverso, ma era lucido, perfetto, profumato. Altrimenti chi c'è di Marco? Si intendia, non vera negli atti, ma è come che c'erano, capito Vale? Fosse polvere. Ah, io Vale che già non si è venuto a prendere a me, era fiammante. Cioè c'erano i tappeti, erano uno spettacolo a vedere, avevo anche paura di appoggiare i piedi, dai. È bellissima quella macchina, è tenuta veramente molto molto bene, ma anche quella di Gianni, che è una macchina adattata, è tenuta veramente molto molto bene, perché io ho modo di vederla e quindi so come Gianni adopera la macchina e come insomma la pulisce, perché è così. No, Marco è anni che non pulisce con la macchina, Gianni. Secondo me è anni. Allora, è stata pulita prima dell'estate scorsa, prima, poi in estate sai, è stata abbastanza sabbia, un po' sabbia di mare, no? E poi se è stata lasciata allo stato brado. Sì, io sai, non la uso molto, da poco che la uso, ci lascio qualche lattina, qualche cosa di carta, mucche di banane, cosa ne so, già l'hai visto? Mucche di banane, ciao Gianfra, mucche di banana? Ma non ve ne è mucche di banane, chi vede un montone di garage, un cassonetto da Mondezza, vai Gianfra, un altro pulito, mi. Sempre bello ordinato, Sant'Antonio mio, Gianfra, cosa ci ho visto oggi? Ah, è oggi? Cosa è oggi? Profumi di tutti i maneri, intima di carizia, di tutto, vera. Gianfra, ho visto la macchina di Marco, di Ratta Pignara, Sant'Antonio mio. Presente bene un cassetto a Mondetta, di più. Non dire così Gianfra, perché mi sono seduto alla tua, non capita niente, sempre pulita, magari fuori sporca, però dentro pulita, dentro non ci può dire entrare. Sì Gianfra, ci ho provato, non ci ho capito, accidenti. E vabbè, adesso lo rispetto perché se no si sente un bel di vento, c'è anche l'altro acceso, se no è un casino. Dopo quando porto il cane, tanto sono già le 25, magari mi faccio guidare da Marco, lo vediamo un po'. Vai Gianni, doppio numero, prendi. Io sto ancora ridendomi e ringrazia che non hai trovato il guano di piccione a terra. Vai, il guano di pipistrello a terra, mi. Vai la matta, rientri in varia, se rimango a piedi non ti telefono a farmi un passaggio via. Nel cofano ti faccio entrare, e anche lì mi. Ma guarda, non ci voglio pensare oggi, non ci... meglio viaggio, in cantina da Eugenio, guarda. Nel bagagliaio del camper di Eugenio, bello ordinato, mi blocco in kiwi, ciao! No, vabbè, il cofano più che altro c'è roba di utilizzo, stanichetta per la benzina, un piccolo estintore, i cavi per partire, i cavi della a 12 volt, piccole cose per la macchina, il kit antiforatura, sì certo, un po' messo alla rinfusa, però tutte cose che servono alla macchina, diciamo, dai. No, ma nell'abitacolo non ci deve essere niente del genere, nell'abitacolo ci devono stare le persone, non le bestie, non gli scarafaggi, capito? Ciao Gianfra, buona cena, ciao Eugenio, un abbraccio, quando sei in zona vieni a trovarmi che mi fa piacere, avremo due risate. Alle prossime, saluti a casa, vai Marco. Via, ciao Eugenio. Ci sentiamo domani, tanto per oggi poi me. Abbiamo durato abbastanza. Ci sentiamo. Buonanotte, buona cena con tutto. A chi rilancio? Chi c'è? Gianni? Valerio. Vai. Ciao, ci sentiamo. Ciao anche Eugenio e anche Gianfranco. Io vi saluto a figlio, vai. Che sto cucinando e sono battuto. Sentiamo alle crocinine, ragazzi. Ciao Gianni Doppio Room, ciao di nuovo Eugenio, ciao Vale, fate sentire, siamo sempre qua, è un piacere scambiare due chiacchiere. Ok già, piena libertà, dai, io apro 10 minuti con Marco e poi vado a portare il cane. Avanti Marco lì. Eia già. Va, e beh, ah, ecco. Ogni tanto o non mi si sblocca la portante o non la trovo là, il blocco portante. Perché il microfono è messo di lato e non è frontale, capito? Io sono a tre quarti dal microfono a parlare. Fosse frontale mi verrebbe meglio. Eia, vabbè. Sì, comunque devo pulire, non va bene essere così. Anche un corpo di aspirapolvere. È che io non sono molto a Giugana, se ci fosse, per esempio una volta me l'ha fatto tutto Ivan, me l'ha fatto, a parte che avevo già buttato la roba, ma ha passato l'aspirapolvere, ha passato quella roba perché prima manda il liquido, no, e poi aspira allo stesso tempo per pulire le foderine. Guarda, la macchina me l'aveva fatta a tappetini puliti, insomma me l'aveva fatta veramente bene, me l'ha fatta lui. È che non mi dura, cioè so già che non mi dura. Vabbè dai. Guarda, e ringrazia che ti volevo fare uno scherzo, ti volevo far trovare il topo dentro, se avessi trovato un topo l'avrei messo dentro. A vedere che faccia facevi. No, tutto mi puoi fare, ma questo il topo fa schifo, veramente. Io lavoro, guarda, evito. E c'è un collega ogni tanto fa questi scherzi stronzi, no? Trova qualche topo morto, ma sto parlando di topo, topi grandi. Ma lo mette all'ingresso alla porta dell'ufficio. Ho detto una volta, due volte, la terza volta. Mi ho preso anche le chiavi dell'impianto, tu immaginati, mi fa schifo proprio, mi fa schifo, è una cosa veramente brutta, mamma mia. Immagina se te l'avessi messo davvero il topo dietro e te lo trovavi quando eri dentro in macchina che ti camminava sulle gambe. Va via, il buco alla cappotta avrei fatto, se sei uscito dalla cappotta dal salto che avrei dato. E infatti noi passaggi non ne diamo di solito perché, mamma lo dice sempre, mamma, pulisci la macchina, è che sono sempre remoscio, no? Una giugana, ma anzi già è strano ieri che ho fatto un po' di repulisti. Mi è venuto il raptus, no, perché non avevo voglia, mi è venuto il raptus e ho pulito, e così devo fare con la macchina, intanto mi viene il raptus e allora lo faccio. Vabbè dai. Vedi che non si arriva mai, cioè si pensa di conoscere una persona ma non la conosci mai, no, basta vedere la macchina. No, ma adesso vai, a parte di scherzi, ma non ti costa niente. Ti prendi una busta grande di mombezzo, tutto quello che non serve, che c'hai lì, vedi il parasole, lo pulisci, lo lavi, lo metti nel cofano, lo vai già nel cofano, te la svuoti, te la metti un po' in ordine. Una bella macchinetta ti consente di uscire, di fare, c'è anche un bel impianto del baracchino eccetera, ti togli tutta quella roba, togli i tappeti e vai a città mercato una mattina tranquillo, una passeggiata, la metti in due gettoni, te la spiri tutta dentro e è una passata d'acqua, la disinfetti un pochino, la tieni più in ordine, cosa serve a tenere tutto un mondettaio, c'è roba dentro che non serve a niente, capito? Anche la teoria del gatto, la prendi, la metti in una busta e te la metti nel cofano, quando c'hai i gatti la prendi dal cofano e la metti dove la devi mettere, ma perché lasciarla lì? Ci abbiamo il cofano, non ci vede niente, un po' più in ordine, no? Più in ordine, perché anche io nella macchina ho le sediette del mare, ho delle cose che mi servono, ma sono tutte ordinate, non, tutti siedi, nella mia macchina non c'è niente, né tappeti, né sedili, è sempre bella pulita e ordinata, quella roba lì devi far sparire, capito? Per me va un po' più decente. Sì, infatti, poi mi se proprio non volessi, basta far sparire tutta l'oggettistica, no? Che carta, tutte quelle cose lì. Poi come ho fatto una volta, l'ho portata alla piazzetta, si è occupata la ragazza, l'ha pulita lì dentro, tutto, l'ha spirata, l'ha lavata, tutto lei ha fatto. Capito? Se proprio non ne avessi voglia, me lo fa la ragazza. Importante togliere tutta la roba, bustini di plastica, quelle cose lì, dai. Imbarazzi, poi una volta che vuota la faccio anche pulire, se proprio non sono pratico, capito? Ti sto dicendo, se tu la svuoti e togli tutta quella roba dentro, ci mettiamo d'accordo, ci prendiamo un caffè, andiamo a usci e te la faccio tutta aspirare e pulire dentro, mio genio. Non è un problema, non sto scherzando, però devi liberare tutta quella roba c'è dentro, c'è un molestario dentro. Cioè, come fai a prendere il cazzo col parasole, tutto che ci metti i piedi sopra, tutto pieno di sabbia e poi lo metti nel parabrezza? È uno schifo, Marco, è una pulita ci vuole, stai scherzando? Sì, ma poi quel parabrezza è anche in disuso, perché è tutto rotto, gli mancano le ventose, è in disuso, l'ha buttato lì e boh. E poi me lo prendo nuovo, bello rigido, eia. E purtroppo quando, sai, la macchina non la considero come la casa, la macchina, anche se la usi per trasportare, per andare, no? La trascuro, però invece, ripeto, Ivan sempre a pulire la macchina, andavamo sempre di notte a pulire la macchina, dentro e fuori. Quello di buono ce l'aveva, che tireva la macchina pulita, capito? Ci teneva molto. Io non conosco quel ragazzino, nessuno Giuseppe non è pulito con la macchina, sempre ordinato, pulito, tutto, però te non ti nasce, è un consiglio che ti do, fallo, cioè, tu prendi una busta di mondezza, ti rapi tutta la roba che fai dentro, che non serve a niente, è proprio mondezza, ok? Tutto, metti di tutto, si pulisce bene dentro, la roba che ti serve ti riordini il cofano e te la metti nel cofano e dentro la macchina non ci deve stare niente, cioè i sedili devono essere puliti, aspirati bene, tutto disinfettato eccetera, la teoria del gatto te la vuoi portare appresso, perfetto, tieni la terra sempre pulita, la metti dentro una busta di nylon e te lo tieni nel cofano la batteriera, capito? No, nessuno dice che non te la puoi portare appresso, no, non lì, cazzo, non lì nel tappeto, nel casino, cioè c'è ancora sabbia nel mare, cioè tu fai estate inverno con la sabbia nel mare, del mare in macchina, allucinante, sì. No, poi a me non piace quando mette quella cassettina con la sabbia, non ci sta a fare niente, a parte che l'altra volta che abbiamo portato il gatto, si è cagato, non riesco a dirlo, si è cagato nel trasportino, ci avevamo messo la carta di giornale, per fortuna nel trasportino, si è cagato nel trasportino il gatto, quindi altro che usare la sabbia, la sabbietta, non gliene frega niente la sabbietta. Quando il gatto un po' è disabituato a portarlo, infatti poi è stato tragico, c'erano, quando abbiamo tolto la carta di giornale, la nuova, no, con la... c'era un odore terrificante, ma sai cosa vuol dire gas nervino? Proprio era ammorbante, in più i vetri di davanti non funzionano perché si è bruciato il contatto elettrico, non potevamo manco aprire i vetri. Poi appena arrivati a destinazione abbiamo evacuato tutto, buttato la carta di giornale, non me lo fa ricordare, lo shock. Ecco perché c'ho le maschere antigas, capito? Per trasportare il gatto in macchina, che fa questi scherzi. Ok, dai, sì, poi te l'ho detto che va a revisione a giugno, anche prima di giugno la devo portare. Quindi bisogna svuotare tutto il superfluo e poi farla lavare, se proprio non la voglio lavare io dentro la faccio lavare. Ok, dai, almeno non avete lo shock la prossima volta. Non ho lo shock raffinati, come vieni, chi sa una chiama. Infatti io lo pensavo venendo, mamma mia, speriamo che se dobbiamo andare al bar andiamo con la macchina di Claudio. Invece poi avete detto, vai, pigliamo la tua, ho detto, mamma mia, mamma di turchi. Ma con le chiavi, se no saremmo andati, era per non salire su, capito? Era per non salire su, se no saremmo andati con la mia, capito che era fuori, una, l'altra era dentro, quindi non c'erano problemi. No, ma io, lì c'era la sciocca anfiati qua, vero? Viva anche a giro che vi sia unito di Riveppi e sia a posto. Ehi, te lo devo dire al baracchino venendo, devo dire, Claudio, piglia le chiavi della macchina, che è meglio. Ma potevi dire, no? Mi avrei preso, gli avrei vista che era fuori, te l'ho detto. L'ho fatta ieri, ma mia, ma fuori, per toglierle quella sporcizia dell'acqua sporca, ma dentro è fiammante, nuova, nuova. È sempre pulita, anche perché io non ci fumo dentro in macchina. Assolutamente, guai, se mia figlia mi cura da muro, sia per una che per l'altra, assolutamente. Che ore sono? 8:20, così, Sì, 8:20. Ringrazio che non ho la piccina, se no poco ci mancava che ci trovavi profilati giusati dentro. Sì, non gioca, ah, vergognati. Anzi, ti dirò, no, quando avevo la piccina, la macchina la tenevo pulita, e lei la voleva pulita, no? Se devi fare certe cose non puoi farle in una macchina messa male, capito? Almeno se l'avessi, così la terrei più pulita la macchina. Va bene, dai. Se sei sopravvissuto alla mia macchina, sopravvivi a tutto tranquillo. No, mi sono spaventato molto, un po' così, anche perché io, sai, lavorando nei depuratori non è che lavoro nel pulito, però sono sicuro che dove lavoro io è più pulito di la macchina tua. Eiaia. Dai, procederò. Poi te l'ho detto, se non ho voglia di farlo io, parlate a levare la roba in più. E poi pago e la faccio pulire. Anche perché sanno bene come pulirla, sai, tutto quanto. Bene, bene. È stata una bella giornata, un'esperienza forte per te e un piacere per aver conosciuto Eugenio anche. Soprattutto un piacere, Eugenio, che ha visto la tua macchina, madre di Dio. Ti ho detto, tu libera la lampada e tutto quello che c'è dentro che non ti serve, perché tutta mondezza si vede che è mondezza, ok? Vieni qua con una busta nera di mondezza grande, ci butta tutto e lo lascia anche mondezza, poi andiamo usci, te la faccio lavare io la macchina, tu non ti preoccupare, tu pulisci tutto e la roba che non ti serve te la metti in cantina, in garage, a casa doia, e a me mi porti la macchina libera e poi tu vedrai come te la faccio fare io quella macchina. Sì, già me le macchine, dai. Quello che scoccia sono un po' i cavetti del baracchino, perché io non faccio cavetti corti, io ho cavetti del baracchino lunghi, poi c'è il cavetto delle, queste cavolo di antenne, e ho una centrale elettrica e quella macchina anche. L'importante è che non vengano incasinati i capetti, capito? Magari glieli li piego e ci metto una, come si chiama quella cosa? Un pezzo di piattina, dai, per tenere i capi ordinati, capito? Così almeno c'è più spazio per pulirla. Con me vieni tu, non me la tutto dai capi, no? Tu libera la macchina, buca di tutta la mondezza, poi andiamo assieme e te la fa davanti, senza toccare nulla, né frega niente a lui dei capi, puoi lasciare il baracchino dentro tutto. Rimaniamo lì e ce ne rientriamo con la macchina pulita, ma pulita, però disinfettata. Grazie un montinaggio, è maschio, dai, aiuto, mamma mia, come sto. E il cofano, anche il cofano fanno, perché lì bisogna levare tutto. Tutta quanta la roba che c'è, la bottiglia dell'olio di riserva per la macchina, non la bottiglietta d'olio. Vabbè, si sposta fuori, non è che si mette in una busta. Così almeno fanno anche dietro, no? Perché tra spiaggini e tutto, un po' di sabbia c'è anche dietro. Una cassetta di plastica, si mette tutto tra cassetta di plastica, la roba che deve rimanere nel cofano lampata, la spiaggina te la vuoi il culo, te la tiri a casa tua la spiaggina e la prendi quando arriva l'estate, non te la tieni nel cofano a creare spazi inutile, capito? La roba che serve si mette dentro una cassettina di plastica, di quelle nere, e si svuota tutto, si fa pulire tutto e poi si rimette la cassettina ordinata nel cofano, come tutti i cristiani, non tutto lampato uscì. Sì, no, ma la spiaggina non c'è. Io dopo l'estate l'ho ritirata le spiaggine, e che sai, si attaccava la sabbia, poi si asciugava e la sabbia finiva dietro. E tutto lì. Va bene. Anche quello è uno da fare, dai, tra le cose da fare. Organizzi e lo fai. L'altro giorno che cosa hai fatto? Ti hai messo i guantini, il lattice, dal chirurgo, hai pulito bene la stanza, te l'hai tutta riordinata, hai messo tutto a posto. È la stessa cosa, decidi un giorno, oggi devo fare la macchina, certo non quando sta piovendo, una bella giornata. Allora si inizia una bella giornata. Tu intanto inizi a liberare tutto lì sul mondezzaio, ti apri tutto, poi a me me lo dici, qua io sono pronto, perfetto, io andiamo, allora facciamo pulire bene come deve essere pulito. E tu vedrai che se ti abitui, quando ti bevi o qualsiasi cosa in macchina, ti fermi davanti a un cassonetto, prendi il lampo e facci pulire sotto la userire. Va bene. E sono cose che ho già fatto, non è che ci voglia tutto questo, è che sono sempre così, la macchina la usiamo a sfinimento, cioè non la curiamo molto, piuttosto quello che curo della macchina, metto sempre il liquido radiatore, l'olio motore lo controllo sempre, che non manchi quello, ecco, quello sì. Però appunto per dentro l'abitacolo lo lascio allo stato brado. Va bene, ok. Chi c'è rimasto qua? Nessuno, Gianni Fornelli, Vale dal computer, già fatto andata a pappare, Eugenio è andato a pappare. Siamo solo io e tu. Mi aspetto un altro po'. 5-10 minuti, dai, se mi hai voglia, e poi stacco, vado a portare il cane e poi mi dedico alla TV. Non possiamo tutta la sera in radio. Qua, bene o male, ci siamo sempre alla sera. E c'è anche tanta gente, è stato Sandro, Massimiliano, già va bene così, là. Pochi ma buoni, diceva questo. Ehi. Pusserà anche qualcuno sul 20, no? PMR no, invece. PMR c'erano solo bambini, che poi non riescono a parlare, stanno lì, poi premono, mollano mentre parlano, no? Loro siano proprio a pasticcio, mi. Noi ci sapevamo organizzare un po' meglio con le radio quando facevamo quei portatili di 100 mili, vattemi, cioè sapevamo già usarla meglio, un po' coordinavamo, questi tutto va proprio a far casino, non è usare la radio nemmeno. Guarda, a me quello che fanno gli altri non mi interessa, non importa, nessuno venga a disturbarmi, non le sto parlando io perché ho un po' di turbanciù, poi è stato anche dichiarato stamattina, che stavo ascoltando qui. E mi puoi stare il 20, il 23, il 5, il PMR, mi piace. Basta che non mi rompano le palle a me. Capito? Non sto cercando nessuno io. Non parlo con chi mi pare piace a me. Ok, ok. Vabbè, comunque tu provaci un altro. Provaci, tranquillo. Così anche per abbattere un po' la monotonia, il tempo, altrimenti è che lo fa. A volte quando so se fa fa niente, come non viene niente ce la fa a casa. E mi dice mi pulisci la parola, pronto, capito? Li faccio. Cosa che fino a poco tempo fa, ogni 10 giorni, ogni 15 giorni veniva una signora e faceva tutti gli armadi, i lampadari, i vetri, queste cose. E quando sono a casa le faccio io. Tu dite pure non è. Non è una cosa vergognosa. Casa tua e lo fai tu. Certo, no, vergognosa non ci mancherebbe, anzi. Bello, bello il camper comunque, io mi accontenterei anche di qualcosa di meno. E davvero mi farei l'estate da zingaro. Ogni di, certo avendo i soldi anche della benzina, oh, è quello. Tutta l'estate era una spiaggia diversa, te le immagini, farsi tutto il giro della Sardegna. Bello sarebbe. E non l'hanno venduto, no? Padre Ivan c'aveva sempre quel camper, non l'ha venduto, però ti devo dire che mentre quello di Eugenio è bello anche di muso, quello che ha Ivan di muso non è bello, è tutto maritosto di muso, è strano, non è bello davanti, dentro sì, ma davanti muso del camper è brutto, quello che c'ha, che c'ha quella 3, capito? Ecco, non glielo compra nessuno. Vabbè, quello di Eugenio di ultima generazione, una macchina nuova, una macchina nuova, non hai visto la targa, è nuova, la macchina è nuova, quello di Ivan è adattato, cioè, è come quelli che c'erano lì parcheggiati, sono altri mezzi, poi quello di Eugenio è un passo lungo, bellissimo, molto molto bello, internamente è favoloso, ma anche esternamente è una bella macchina, molto molto bella, quello di Ivan è completamente diverso. Come mezzo è vecchio, mi capito, non prescindere che abbia un bel interno, abbia un bel arredamento, perché come mi ha spiegato Eugenio sono una richiesta, quindi lo puoi richiedere come vuoi. Quello che c'è Eugenio è di il modello lusso, capito, ce l'hai visto com'è dentro, molto molto bello, ma quello che c'è Ivan è vecchio, dai, è vecchio, già lo so, no, vabbè. Vabbè, comunque sono dei mesi lo deve avere il posto, io ma l'altro giorno gli ho detto cosa, perché se ben ti ricordi tutti i camper prima erano nel posteggio lì che c'è, dove c'è la questura, ok, e li hanno fatti togliere, perché non vanno messi così i camper, è un mezzo che possono anche farti la contravenzione per occupazione di suolo pubblico, capito? Adesso si sono trasferiti tutti dove stanno facendo la guardia di finanza qua vicino a me. L'altro giorno c'erano due pattuglie di vigili urbani che hanno preso tutti i numeri delle targhe. Io siccome stavo passando in moto, mi sono fermato a salutare un maresciallo, insomma, un vigile. E gli ho chiesto, bene, mutando, ho detto qua, stiamo prendendo tutte le targhe per fare le verifiche, perché i camper qua non possono stare, ma essere costruiti in campi organizzati, in posteggi organizzati, perché altrimenti con la legge del Comune di Sassari c'è la occupazione solo pubblico, non è una macchina, ok? Non è una macchina, c'era anche un semirimorchio parcheggiato, non ci può stare, assolutamente. L'ho detto a lui l'altro giorno. No, non è vero, ma come stai dicendo? Qui e là, la legge non è così, l'ho detto, la legge non è così. Dile a Babudu, andà a pigliarci un gap per me anch'io e toglierlo. Perché tu vedrai che vi arriva una bella sanzione a casa, perché io so perfettamente che ce l'aveva mio cognato, ok? E gli avevano fatto togliere da pronto così era sotto casa sua. E l'ha messo lì a Trentino nel posteggio organizzato di Ruas, ok? Perché non si può tenere il camper nella strada, nel modo più assoluto. Ah, così è. Io credevo invece che lo potessi lasciare un giorno, cioè, però non deve rimanere in pianta stabile. Quello ricordavo io, non può rimanere fermo giorni e giorni, se non mesi, capito? Va mosso. E comunque sì, è vero, ci sono delle zone apposite. Non mi ricordo come si chiamano, dove si trovano. E qual è il posto della Guardia di Finanza? Non me ne ricordo io. È il caseggiato nuovo che è finito, si stanno già trasferendo pian pianino. Ci sono già tutte le telecamere. Siccome ci sono tutte le telecamere accese, ok, come le telecamere della via della questura, e quindi loro per proteggersi mettono i camper dove sono le telecamere. Adesso sono trasferiti tutti lì, che praticamente dove c'è la San Paolo. Ok, la chiesa San Paolo, non i campi della San Paolo, la chiesa, capite? Lì, quel caseggiato giallo e grigio, guarda la Guardia di Finanza, e penso prima dell'estate si trasferiscono definitivamente, ok? Tanto è vero che a volte c'è anche la pattuglia della Guardia di Finanza che fa in notturno, perché io la mattina esco presto alle 6 e loro sono posteggiati lì davanti al cancello. Ok, c'è sempre una pattuglia che vigila tutto il complesso, ma è tutto pieno di telecamere comunque già attive, e quindi loro si mettono lì, e tu vedrai che a breve lì non ci sarà più nessuno, capito? Perché questi due che ci sono sotto casa sono due che abitano qua nel palazzo, quelli che li posteggiano lì non ci abita nessuno ha la casa lì, li mettono lì per essere protetti dalle telecamere. Sì, te le raccomando, le telecamere, se devono far danno lo fanno. Una volta l'ha messa a ridosso della Gonzaga, era a ridosso della Gonzaga, e le telecamere non sono servite proprio a niente. E c'era un primo che lo metteva anche qua vicino a casa, capito? Un posto molto tranquillo, perché ce ne sono altri due, ti ripeto, però quei due camperi tu hai visto, abitavano tutti e due nel palazzo di fronte a me. E sabato e domenica si prendono il campo e se ne vanno fuori sempre, estate e inverno, capito? Però lì che è una via, non si può lasciare il camper così, assolutamente, perché è occupazione di suolo pubblico, questo me l'ha detto Grigio, quindi non ti dica di no, infatti gli ho detto dille a tuo padre, e se no vai tu e lo togli da lì, lo prometto, sto casa non va bene, il culo di rumore, lo devi togliere da lì, lo devi togliere, perché se hanno preso il nome di Italia, ok, tu vedrai che succede qualcosa, capito? Poi quando c'è la Guardia di Finanza lì, che tutte le macchine della Guardia, perché sono tutte strisce gialle a destra, capito? Quindi quei posteggi lì sono posteggi per le macchine, non di servizio, perché quelle terranno dentro sicuramente, ma sono macchine, sono posteggi che la Guardia di Finanza ha per mettere le macchine brutte. Quindi immaginate tu il casino che succede. Comunque diciamo che è un po' un'ingiustizia lì, Claudio, perché come può parcheggiare un camion, può parcheggiare un autocarro, un camion diciamo, no? Un furgone grande, e perché il camper no? Alla fine è un veicolo anche quello. Certo, non puoi stare fisso in seduta in pianta stante, non puoi lasciarla mesi lì, si deve muovere. Cioè, è una legge un po' ingiusta anche. Il camper è pur sempre un veicolo, anche se è abitabile. Sto dicendo, ci sono le strisce gialle, e sia all'inizio che alla fine c'è il limite, c'è inizio e fine, nel limite del divieto di sosta. I cartelli sono ancora tappati, ok, coperti, ma quando la Guardia di Finanza sarà attiva lì, i cartelli vengono messi in uso, non si può posteggiare perché sei di fronte a un cancello di pubblico stato, non puoi parcheggiarti lì, hai capito? non si può parcheggiare lì. Quei mezzi lì prendono mezza corsia, la strada è a due corsie, e il camper, siccome è talmente grande, esce con le ruote fuori dalle strisce gialle, e poi nelle strisce gialle, delimitato la striscia gialla, sono parcheggi loro, tu non ci puoi stare, c'è del vietto di sosta. Sì, quello sì, no, ma io non parlavo delle strisce gialle, dicevo in generale, no, anche quelli sotto casa sua, sotto casa tua, no, lì non possono stare, però perché un furgone grande può stare, un autocarro grande, il camper no, è un po' un'ingiustizia. D'altronde il camper è pur sempre un mezzo, anche se abitabile, no? Io ho capito, ma evidentemente è un altro tipo di cosa stradale, non lo so di cui c'è stradale. Guarda, qua vicino a me è una vita, siamo arrivati assieme, abita Ottavio Secchi. Ottavio c'era due camion, ce li ha ancora, grandi, e li hanno fatti togliere, li metteva tutte e due nella strada, parcheggiati bene, normali come una macchina, li hanno fatti togliere. Non è un posto per parcheggiare camion, solo mezzi, macchine e boh. Ho sentito anche, per esempio, quando vai al mare in estate, in certi posti non vogliono nemmeno metterli, non vogliono nemmeno metterli, allora è un problema anche andare in estate nelle spiagge, anche se la colpa credo che sia per quelli che campeggiano proprio, cioè che stanno lì una settimana, un mese, quello sì. Però ho sentito lo stesso che è un problema certe volte, secondo dove lo metti in estate. Allora comincia a essere un po' seccante la cosa. Ma c'è il campeggio organizzato, tu non è che col camper puoi andare dove ti piace. Oppure sì, se c'è un posteggio che occupa il posteggio e non so come funziona quello, bisogna dirlo a Eugenio. Però penso che ci siano delle regole da rispettare, tutto qua, capito? Ma qui sono le 8, dai, mi sono trattenuto anche troppo per la portare a Filippo. Se ci sei dopo, altrimenti ti auguro buona cena, con tutto, saluta mamma e fai quello che ti ho detto, ok? Poi è quello che mi chiede sempre lei. Ok, bene, buona cena, buon tutto, dai, che ore sono le 8, meno 10, meno 5, boh. E fra poco appena apre questo multimarket vado a prendere un po' di frutta, così due cosette, ok? Sentiamo domani. Oggi siamo stati un bel radio, mi. Dalle 5 in poi eravamo sempre in radio, quindi per oggi abbiamo parlato abbastanza. Ok, ciao, buonanotte, ciao ciao. Ciao, non capisco questo market che apre alle 8, boh. Alle 8 chiudono, alle 8 e mezza, boh. Vabbè, sono le 8 Marco, non sono meno 10 e niente. 19:58, quindi sono le 8. Ok, sì, dai, grazie di tutto. Poi ci aggiorniamo diversamente, dai. Ci mettiamo d'accordo. Ok, ciao, vado a portare il cane che già mi sta leccando i piedi, ciao ciao. Sì, no, per finire, questo Loriga, no? È quello che apre alle 8 di sera e chiude tipo a mezzanotte, mezzanotte e mezza. Oppure chiede, apre all'ora di pranzo, tipo apre all'una e mezza, no? Perché si è dimenticato roba. Degli orari liberi, no? Perché tanto ormai la nonaria non c'è più, no? Lui apre quando ha orari particolari, dai. Se ti sei dimenticato una cosa, come me, frutta, quello che vuoi, lui apre dalle 8 di sera, anche la mattina, può aprire la mattina, può aprire il pomeriggio, ha degli orari variabili, però di sera alle 8 tutta la sera apre e chiude a mezzanotte o giù di lì. Non ho capito chi è, sì, vabbè, ho sempre fatto. Va bene Marco, vado a portare il cane, dai, ciao di nuovo, a frappè. Sì, a frappè, a domani, dai, ciao, buonanotte, ciao ciao. Ehi, a domani, ciao ciao ciao ciao. Ehi, Avare, mi stava leccando i piedi, ma anche la tromba già costiglia. Ciao Avare, buonasera, un abbraccio, mollami finì. Ah, bagazza, tamara pureta.